sazio, cominciò sopra un'isola a calarsi. Oltre l'orizzonte e ancorata al mare, l'isola felice ha liberato il sole. Se vivi galleggiando non puoi più affondare, io resto qua. Riempio i miei polmoni di spore visionarie, i pesci nelle reti si infilano da soli. Resto qua, io resto qua, niente da chiarire. Qui non c'è fatica e non puoi più sbagliare, io resto qua. Scappare da qui, non fare il mio errore, quest'isola uccide, possiamo soltanto fuggire. Ti prego, liberami, strappami da terra, ora il mio corpo è un vestito di legno. Thank you.